Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas. Traduzione di Marisa Zini. Il nuovo personaggio seguì con occhi impazienti Bonacieux fino a che fu uscito. E non appena la porta gli venne richiusa alle spalle, si sono veduti, disse accostandosi rapidamente al cardinale. La regina e il duca? Esclamò Richelieu. Sì. E dove? Al Louvre. Chi ve l'ha detto? Madame de Lannoy, che è tutta per vostra eminenza, come sapete. Come si sono svolte le cose? A mezzanotte e mezzo la regina era con le sue dame nella sua stanza da letto. Non appena qualcuno è venuto a consegnarle un fazzoletto da parte della sua cucitrice, subito la regina ha manifestato una forte emozione e, nonostante il rossetto che le copriva il viso, è impallidita. Poi si è alzata e con voce alterata: «Signore», ha detto, «aspettatemi 10 minuti e torno». Ha aperto la porta dell'alcova ed è uscita. E quanto tempo la regina è rimasta fuori dalla stanza? 3/4 d'ora. E poi è rientrata? Sì, ma per prendere un cofanetto di legno di rosa con le sue iniziali e per riuscire subito. E quando è rientrata, più tardi, ha riportato il cofanetto? No. Madame de Lannoy sapeva cosa contenesse il cofanetto? Sì, i puntali di diamanti che Sua Maestà donò alla regina. Bene, bene, Rochefort. Non tutto è perduto e forse tutto va per il meglio. Quali sono gli ordini di vostra eminenza? Non una parola su quanto è accaduto. La regina rimanga in una tranquillità assoluta. Ignori che conosciamo il suo segreto. Creda che siamo alla ricerca di una cospirazione qualsiasi. Mandatemi Vitré. E quell'uomo che ne ha fatto, Sua Eminenza? Quale uomo? Quel Bonacieux. L'unica cosa che se ne poteva fare. La spia di sua moglie. Il conte di Rochefort si inchinò come chi riconosce la grande superiorità del maestro e si ritirò. Un attimo e l'uomo richiesto era in piedi al cospetto di Richelieu con tanto di stivali e speroni. Vitré, partirete a spron battuto per Londra. Non vi fermerete un istante per via. Consegnerete questa lettera a Milady. Ecco un buono di 200 pistole, passate dal mio tesoriere e fatevi pagare. Ce ne saranno altrettante da riscuotere se sarete di ritorno fra 6 giorni e avrete eseguito bene l'ambasciata. Senza rispondere sillaba, il messaggero si inchinò, prese la lettera, il buono di 200 pistole uscì. Ecco il contenuto della lettera. Milady, trovatevi al primo ballo a cui parteciperà il duca di Buckingham. Avrà sul giustacuore 12 puntali di diamanti. Avvicinatevi a lui e tagliatene 2. Non appena saranno in mano vostra, avvertitemi. L'indomani del giorno in cui si erano svolti questi avvenimenti, siccome Athos non era ricomparso, Monsieur de Tréville ne fu avvisato da D'Artagnan e da Porthos. Quanto ad Aramis, aveva chiesto un congedo di 5 giorni ed era a Rouen, dicevano, per faccende di famiglia. Per i suoi soldati, Monsieur de Tréville era un padre. Anche l'ultimo e il meno conosciuto di loro, non appena indossava l'uniforme della compagnia, era altrettanto certo del suo aiuto e del suo appoggio quanto avrebbe potuto esserlo il suo stesso fratello. Si recò quindi immediatamente dal luogotenente criminale. Venne chiamato l'ufficiale che comandava il posto della Croix Rouge e dalle successive informazioni si seppe che Athos era per il momento trattenuto al Fort l'Evêque. Anche lui era passato attraverso tutte le prove che vedemmo avere subito Bonacieux. Già abbiamo assistito al confronto tra i due prigionieri. Athos, il quale fino allora non aveva parlato per timore che D'Artagnan, disturbato a sua volta, non avesse il tempo sufficiente, dichiarò a partire da quel momento di chiamarsi Athos e non D'Artagnan. Aggiunse che non conosceva né Monsieur né Madame Bonacieux, che non aveva mai parlato né all'uno né all'altra, che era andato verso le 10 di sera a fare una visita al suo amico Monsieur D'Artagnan, ma che fino a quell'ora era rimasto in casa di Monsieur de Tréville, dove aveva cenato. 20 testimoni, soggiunse, potevano provarlo, e fece il nome di parecchi distinti gentiluomini, tra gli altri il duca di La Tremouille. Athos fu spedito subito dal cardinale, che però sfortunatamente si trovava al Louvre dal re. Era proprio il momento in cui Tréville, congedatosi dal luogotenente criminale e dal governatore di Fort l'Évêque, senza essere riuscito a trovare Athos, era giunto la sua maestà. Come capitano dei moschettieri, egli aveva libera entrata presso il re a tutte le ore. Si sa quali fossero le prevenzioni del sovrano contro la regina, prevenzioni abilmente alimentate dal cardinale che, in fatto di intrighi, diffidava infinitamente di più delle donne che degli uomini. Soprattutto uno dei più forti motivi di tale prevenzione era l'amicizia di Anna d'Austria per Madame de Chevreuse. Queste due donne lo preoccupavano più che le guerre con la Spagna, i dissensi con l'Inghilterra e il disagio delle finanze. Ai suoi occhi e nel suo convincimento, Madame de Chevreuse serviva la regina non soltanto negli intrighi politici, ma, cosa che lo cruciava assai di più, negli intrighi amorosi. Al primo accenno del cardinale, e cioè che Madame de Chevreuse, esiliata a Tours, e che si pensava fosse colà, era venuta a Parigi, e che nei 5 giorni di permanenza aveva fuorviato la polizia, il re era andato su tutte le furie. Capriccioso e infedele, egli voleva essere chiamato Luigi il Giusto e Luigi il Casto. I posteri capiranno difficilmente quel carattere che la storia spiega solo con fatti e mai con ragionamenti. Ma quando il cardinale aggiunse che non soltanto Madame de Chevreuse era venuta a Parigi, ma che la regina aveva anche riallacciato i contatti con lei, quando affermò che lui, il cardinale, stava per dipanare i più oscuri fili di quel raggiro, Luigi XIII non seppe trattenersi. Fece un passo verso l'appartamento della regina con quella pallida, muta indignazione che, quando scoppiava, portava quel principe fino alla più spietata crudeltà. Eppure, fino allora, il cardinale non aveva ancora accennato al duca di Buckingham. In quel momento Tréville entrò, freddo, cortese, irreprensibile nella sua uniforme. Luigi XIII metteva già la mano sul pomo della porta, si volse al rumore che quegli fece nell'entrare. «Capitate a buon punto, signore», disse il re, che quando le sue passioni erano salite a una certa temperatura non sapeva dissimulare. E ne sento delle belle sul conto dei vostri moschettieri. Ed io, ribatté freddamente Monsieur de Tréville, ne ho da dire delle belle a vostra maestà sui suoi magistrati. Ho l'onore di informare vostra maestà che un gruppo di procuratori, di commissari, di poliziotti, tutta gente rispettabilissima, ma assai accanita, si è permesso di arrestare in una casa, di portare via in piena strada e di scaraventare a Fort l'Évêque uno dei miei moschettieri, o meglio, dei vostri, sire, di condotta irreprensibile, di reputazione quasi illustre e che vostra maestà conosce bene. Monsieur Athos. Athos, fece il re macchinalmente, sì, già, è un nome che conosco. Dunque, Monsieur Athos, s'era recato a visitare un suo amico in quel momento assente, continuò Tréville, un giovane bernese cadetto delle guardie di sua maestà nella compagnia des Essarts. ma si era appena installato in casa di questo amico e nell'attesa aveva preso un libro che un nugolo di sbirri e di soldati tutti insieme venne ad assediare la casa, sfondò parecchie porte. Il cardinale fece un cenno al re per significare: è per la faccenda di cui vi ho parlato. Sappiamo tutto, disse il re, perché tutto ciò è stato fatto al nostro servizio. Allora, disse Treville, è tristissimo che con i brutti tempi che corrono, la vita più illibata, la virtù più incontestabile, non esimano un uomo dall'infamia e dalla persecuzione. Pertanto l'esercito sarà scontento, posso garantirlo, di essere esposto a severi trattamenti per questioni di polizia. «Questioni di polizia!» sbottò il re, raccogliendo le parole di Treville. «Questioni di polizia! E che ne sapete, signore? Immischiatevi dei vostri moschettieri e non rompetemi la testa! A sentir voi sembra che se per disgrazia si arresta un moschettiere la Francia sia in pericolo! E quanto chiasso per un moschettiere! Ne farò arrestare 10, corpo di Bacco, anche 100, tutta la compagnia, e non voglio che si apra bocca. Dal momento che sono sospetti a vostra maestà, disse Treville, i moschettieri sono colpevoli. Quindi eccomi pronto, sire, a restituirvi la mia spada. Perché dopo aver accusato i miei soldati, il signor cardinale, non ne dubito, finirà con l'accusare anche me. «Guascone cocciuto! Volete finirla?» disse il re. «Sire», rispose Treville senza abbassare minimamente la voce, «ordinate che mi si restituisca il mio moschettiere oppure che venga giudicato». «Sarà giudicato», disse il cardinale. «Il re temette uno scandalo». «Su via», fece il re, «mi giurate, su mio padre, che Messie Athos era in casa vostra durante il fatto e che non vi prese parte, sul vostro glorioso padre e su voi stesso, che siete quello che più amo e venero al mondo, lo giuro». «Vogliate riflettere, sire», aggiunse il cardinale, «se lasciamo libero il prigioniero, non potremo più conoscere la verità». «Athos sarà sempre a disposizione», ribatté Treville, «per rispondere quando piacerà ai giudici di interrogarlo. Non diserterà, signor cardinale. State tranquillo, rispondo io di lui». «Diavolo, diavolo», mormorò il re. «Che fare? Firmare l'ordine di scarcerazione e tutto sarà risolto», riprese il cardinale. «Come vostra maestà, credo che la garanzia di Monsieur de Treville sia più che sufficiente». Treville si inchinò rispettosamente con una gioia mista però a un timore. Avrebbe preferito una cocciuta resistenza del cardinale a quell'improvvisa arrendevolezza. «Mi giocherà quanto prima qualche brutto tiro», diceva Treville. «Con un uomo simile non si ha mai l'ultima parola». D'altronde Treville aveva ragione di diffidare del cardinale e di pensare che tutto non era finito, perché non appena il capitano dei moschettieri ebbe chiuso la porta dietro di sé, sua eminenza disse al re: «Adesso che siamo soli noi due, parleremo sul serio, se Sua Maestà lo vuole». «Sire, Monsieur de Buckingham era a Parigi da 5 giorni ed è partito solo stamattina». Impossibile farsi un'idea dell'impressione che quelle poche parole produssero su Luigi XIII. Egli arrossì e subito dopo impallidì. E il cardinale si accorse che di colpo aveva riguadagnato tutto il terreno perduto. «Si è di Buckingham a Parigi!» esclamò. E cosa ci viene a fare? Certo, a cospirare con i vostri nemici, gli ugonotti e gli spagnoli. No, per Dio, no! A cospirare contro il mio onore! Oh, sire, che idea! La regina è troppo virtuosa e soprattutto ama troppo vostra maestà. La donna è debole, monsignore, replicò il re, e quanto ad amarmi molto, so io come stanno le cose. Tuttavia continuo a credere che il duca di Buckingham è venuto a Parigi per un fine assolutamente politico. E io sono certo che è venuto per altro, monsignore. Ma se la regina è colpevole, che tremi! Veramente, disse il cardinale, per quanto mi ripugni l'idea di un simile tradimento, vostra maestà mi ci fa pensare. Madame de Lannoy, che per ordine di vostra maestà ho interrogato parecchie volte, mi disse stamattina che la scorsa notte la regina aveva vegliato fino a tarda ora, che stamattina aveva pianto a lungo e che aveva scritto per tutto il giorno. «Allora voi credete come me che ella mi inganni?» domandò il re. «Credo, e lo ripeto a vostra maestà, che la regina cospira contro la potenza del re, ma non ho detto contro il suo onore. E io vi dico contro tutti e due. Io vi dico che la regina non mi ama. Vi dico che ama un altro. Vi dico che ama quell'infame duca di Buckingham. Perché non l'avete fatto arrestare mentre era a Parigi? Arrestare il duca? Arrestare il primo ministro di Carlo I? Ma ci pensate, sire? Quale scalpore! E se veramente i sospetti di vostra maestà, cosa di cui continuo a dubitare, avessero qualche consistenza? Quale terribile scalpore! Quale atroce scandalo! Ma se lui si esponeva come un vagabondo, come un ladro, bisognava... Luigi XIII si trattenne, spaventato da ciò che stava per dire, mentre Richelieu, allungando il collo, aspettava inutilmente la parola rimasta sulle labbra del re. Bisognava... Nulla, disse il re, nulla. Ma durante tutta la sua permanenza a Parigi non l'avete perduto di vista? No, sire. E siete certo che la regina e lui non si siano veduti? Credo la regina troppo ligia ai suoi doveri, sire. Ma hanno corrisposto. E a lui che la regina ha scritto tutto il giorno. Signor Duca, voglio quelle lettere. Sire, però... Signor Duca! A qualsiasi costo le voglio. Tuttavia farò osservare a Sua Maestà, anche voi dunque mi tradite, signor Cardinale, per opporvi sempre in tal modo ai miei voleri. Siete anche voi d'accordo con lo spagnolo e con l'inglese, con Madame de Chevreuse e con la regina? Sire, rispose sospirando il Cardinale. Credevo di essere al di sopra d'un simile sospetto. Signor Cardinale, mi avete sentito? Voglio quelle lettere! Ci sarebbe un solo mezzo. Quale? Incaricare della missione il guardasigilli Séguier. La cosa rientra completamente nelle sue mansioni. Lo si vada a chiamare immediatamente. Gli ordini di vostra maestà verranno eseguiti, ma... Ma cosa? Ma la regina forse si rifiuterà di obbedire. Ai miei ordini? Sì, se ignora che tali ordini vengono dal re. Ebbene, perché non ne dubiti... Andrò ad avvertirle io stesso, ma intanto mandate a chiamare il guardasigilli. Io entro dalla regina.